49.10, prima radio, cambio. CQ10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Ciao Gianni. Ciao Alfa. Sei rimasto su Pesita. Ho fatto una chiamata un paio di secondi prima di te e stavo per spegnere, ho detto ma oggi non c'è nessuno. Mi puoi dire come mi senti e se c'è differenza dalle altre volte? Ho rismontato, ripiazzato la solite cose, quindi vediamo se va. Ah, sentire ti sento bene, però per dirti la differenza dovrei attaccare un altro apparecchio, perché questo è un po' avaro come smitter, capito? Ti dà segnali meno. È stato sempre così da quando l'ho acquistato. Se hai un attimo di tempo attacco i galassi, quello è perfetto come segnale. Ok, non c'è problema. Vai Gianfra! Eccoci qua. Non so se te lo ricordi come andava prima. Speriamo che sia un pochettino meglio. Sì, sul più del 9.30. Ehi, addirittura, 9.30. Quanto è? Aspetta, quante volte sta andando questo coso? Neanche da solo. Aspetta, no, sarebbero 11. 11 watt, possibile, boh. E magari come hai messo la posizione si vedono le antenne, capito? Vabbè, lo lascio così. Adesso lavora, credo, da su tutte le frequenze dell'apparato. Questo è il link. E va, credo che vada da 30 MHz fino a 24 spiccioli. Mettere il piede direttamente, staccarlo e metterlo nell'altro. Era difettoso. Vabbè, la cosa della ZTG appena comprato, già difettato. Forse ci siamo sovrappopolati. Ti stavo dicendo che comunque adesso ci ho aggiunto uno di quelli AT100, che è una cordatura d'antenna, e quindi ho risolto il problema, dato che comunque opera da 24 a 30 MHz questo qua, quindi le copre tutte, dai, in automatico. Vediamo un po', sembra che vada bene. Ma quell'antenna lì non ti dovrebbe dare stazionario per nulla, mi Gianfra, non c'è bisogno di accordare. Vabbè, se la devi accordare su altre frequenze è un conto, però qua in 27 si deve dare nemmeno un in uno. No, allora guardando le specifiche e il tipo d'antenna soprattutto, questa è una Game Master non 5 ottavi, che è leggermente più alta, più larga di banda, ma leggermente solo, e adesso per motivi tecnici l'ho dovuta diminuire a mezz'onda, quindi come quella che vendono, la V, l'HW si chiama, Game Master mezz'onda HW, che è più, poco più bassa della Game Master che conosciamo noi da 5 ottavi, che è 7 metri, la HV credo che sia intorno ai 5,5, una cosa del genere. Capito? Quindi se vuoi andare la larghezza di banda per entrambi più o meno è di appena 1 MHz e qualche spicciolo, quindi giusto la 27 ti fa, neanche la 28. La 28 basta guardare la specifica che c'è della Sigma. Ah, capai. Non era al corrente io che tu l'avessi accorciata, capito? Pensavo che fosse la stessa lunghezza. Ma tu l'hai riscesa, la stavi accorciando, magari l'hai accorciata troppo così. Io l'ho scesa perché era era corroso all'interno, e quindi sia il condensatore, perché c'è dentro un condensatore fatto con un pezzo di coassiale, e sia un ma non mi viene il termine, un altro pezzo di coassiale che serve per un regolatore di impedenza, insomma vogliamo dire tutta, che è fatto lo stesso di un cavo tipo RG58. La taratura di questi due elementi è a dir poco critica, perché se fatta a terra la devi fare lontano da elementi metallici, eccetera, eccetera, eccetera, quindi è un bagno di sangue la taratura. Bisogna provare solo con cose, con calcoli particolari. Quello che vedi su YouTube che prende, taglia la falla, sì, fattori di velocità, però poi il lato pratico è ben diverso, non funziona proprio così la questione. E quindi ho dovuto fare tutta questa bella operazione che ho fatto prima, capito? Comunque va bene così, sta andando bene, lasciamo così. Vabbè, e perché prima non ti ricordi che usavamo tutti la Grand Prix? Non so se tu l'hai avuta, mai avuto la Grand Prix, quella della Lemme con i radiali 2,75, tipo un ombrello era. Ma sparava di brutto, allora arrivavo 9,95 alla zona del Sacro Cuore. Sì Gianni, io ho iniziato con quella, forse c'erano già le Grand Prix, però quella era la sua molto vecchia, ed era la Boomerang, quella che aveva lo stiletto, il radialino regolabile, no, per la frequenza, e comunque andava lontana, perché insomma finché c'è la vista ottica problemi non ce n'è. Quando iniziano ad esserci palazzi intorno, sei basso e tutte queste cose, che ad esempio Sassari la vedo tutta dall'inizio alla fine, Usilo lo stesso, parte di Sennori lo stesso, forse vedo anche un pezzettino di Ploaghe, ma non ne sono sicuro. Comunque vedo tutte le paleoliche di Cosoli, di tutta la, come si chiama, la parte di Ploaghe, eccetera. Quindi insomma l'apertura c'è. Io ho avuto sempre problemi con la Boomerang, l'ho avuta anche io, però mi dava problemi stazionari, meno di due non riuscivo a abbassarla. Vabbè che io l'avevo messa sulla ringhiera ed ero circondato da palazzi, praticamente per intenderci abitava la buon'anima del Tore alla Verde, capito? Sì. Ma poi l'antenna di Torre l'hanno tolto, hanno tolto tutto, giusto? Sì, non c'è più nulla. Mi ricordo che ero salito anch'io a darle una mano, che c'era quella botola, quella botola che bisognava entrare come così, non ho capito come ci passava lui comunque. C'aveva anche la scaletta fissa. Sì, aveva fatto anche dei bei dipoli, eccetera, e vabbè. Si è arrangiato, ha avuto le sue soddisfazioni, come tutte, poi sappiamo tutti come va a finire, no? Prima o poi. Vabbè, la vita è quella, il circolo della vita è quello. Guarda se dovessimo vivere in eterno, allora non sarebbe più posto. Ma guarda, proprio poco fa su Netflix ho visto una specie di sceneggiato, quei soliti seriali, in cui ispirato a Frankenstein, e questo però c'era un particolare che non moriva mai, e quindi c'era questa situazione così brutta, poveraccio, che praticamente vedeva gli altri morire e lui rimaneva, quindi non è una cosa tanto bella, ecco. Io invece ne ho visto un'altra di cosa, praticamente è questo che diceva, ma ve ne immaginate che quando compiamo gli anni spegniamo la candela, invece quando moriamo ce l'accendono. Sì, sì, beh, ci sono tante cose strane. Ti volevo dire, Gianni, che ieri sono rimasto impressionato, ho acceso per curiosità, era un po' più tardi, tipo questi, mi è sembrato un russo, non sono sicuro, però arrivavano, ho detto, ma questi dove sono, assassini? Con segnali da paura. Poi su un canale che poco a poco più in basso del 10, adesso non me lo ricordo, sentivo come se ci fosse un ponte radio, perché c'era quello che noi in gergo chiamiamo la coda, no? E c'erano questi che parlavano, non so se fosse la Slovenia o quelle zone lì, e sentivo lo stacco del ripetitore. Ma è 27. Sì, sì, in 27, proprio in piena 27, un paio di canali sotto. E poi su un altro canale c'erano questi che stavano parlando, ho provato a chiamarli perché arrivavano talmente forti e salivano di segnale, poi si abbassavano un pochino, poi risalivano di colpo. Evidentemente c'erano delle condizioni meteo di propagazione veramente micidiali, e sembravano un altro po', erano forti quanto lo sei tu, per quanto possa essere sballato lo Smith di questi digitale, però cacchio, io mi accorgo quando parli tu o quando parla uno da fuori che dovrebbe arrivare più basso. Questa è una cosa da paura su tutti i canali, deve essere, hanno usato anche, magari usavano anche dei grossi lineari, cioè magari la propagazione li accompagna, ma usano anche grossi lineari, quindi è normale che arrivino. E gli americani, certo, quando parlano gli americani ci splatterano anche i canali. Come è? Le ultime parole famose. Bueno, en cuestión de señal yo tengo que igual, en cuestión de señal, pero el problema del ruido, que aquella pone más ruido, aquella... Stanno facendo apposta, stanno giocando o è reale? No, è reale. Non hai messo il segnale, come sarì? Visto si sta ripetendo, sono condizioni particolari, neanche più su, neanche in 28 c'è una cosa del genere, sì, si sente parecchia roba, ma qua c'è nel doppio. Ma io mi ricordo che vecchi radioamatori dicevano che prima andavano in 27, quando c'era propagazione in 27 vuol dire che c'era anche nelle altre bande e andavano in 28 eccetera. Quando trovavano la propagazione in 27 andavano subito a vedere dei canali nelle frequenze di AC. Infatti è così, però comunque qua c'è sempre, ce n'è sempre di più, forse perché sono più numerosi, non lo so, vabbè, comunque. Un'altra cosa che non ho mai capito è perché la CB si è fermata alla M, mentre io anche sotto, sul canale sotto, ascolti molte stazioni tedesche, eccetera, con una chiarezza da paura. Da paura. E quindi, tra l'altro è più pratica, la radio è più bella, non c'ha bisogno di tutte queste regolazioni dei toni, eccetera. Non ho mai capito questa cosa. Perché noi abbiamo cominciato in AM, mentre invece la Germania, la Francia usano tutte le FM. Ma comunque anche io ci vado e se sento gente che c'è l'FM, perché quando ci sono li sento anche l'AM, vado a controllare a vedere chi c'è, capito? Però i tedeschi cosa ci vanno a fare? Non capisco un cavolo di tedesco, boh. Gli dico solo Achtung, Kartoffel, Telefunken e loro mi dicono Maccheron! Mentina! Avanti chi vuole entrare! Mentina! Non fare lo spiritoso, dai, qualificati. Ciao, Messina. Vabbè, capito, lo spiritoso di tutto. Messina. Dai, sovramodulano già, tanto quando non si presentano io di norma non ci parlo. Vabbè, va. È un amico sicuramente, sta facendo Roma in campo. Ma arriva basso basso. Quindi le do un colpo di squelci, così so che così si regola. Va bene già, io me ne vado a cena. Grazie per i rapporti, buona serata e alle prossime. Ciao, ciao, ciao, fra. Alla dubbia stai. Sì, perché sono già le 7, io ceno presto per motivi di stomaco. E poi quando sento gente che non si presenta, di default l'apparecchio si spegne quasi, capito? Quindi non... aspetta, anche il computer che sta facendo un aggiornamento tra l'altro. Va bene Gianni, dai, ci sentiamo più tardi, dopo cena magari. Vieni a chiamare, mentira, tu la fa. No, ciao, già, fra, ci sentiamo, buona cena, ciao. Ma io lo provo a capi. Tanto ho capito che sì. Guarda, lo coprono addirittura questi che stanno parlando. No, tanto non si presentano, lo sanno che quando si comportano così ci fanno solo una brutta figura. Ciao! Ciao, ciao, Giofra. Non te la prendere, tanto è qualcuno che vuole fare qualche scherzo, però dopo, vabbè, potrebbe anche presentarsi. Là. Già, secondo te con 40 anni di radio me la prendo come quando nei tempi della 27 quando eravamo giovani, poi stessa cosa succede anche sulle altre frequenze, niente di particolare, tutto lì, ma quando li ignori è come darle uno schiaffo, perché praticamente è così. C'è ancora, scappo via. Ciao, ciao. Avanti se c'è qualcuno sul 10. Attento e armato della scossia all'isola della Sardegna, adelante. Chi è? Lucrezia, Dusi. Attenzione, Lucrezia. Cicucci. Beh, ho entrato e devo venire a giocare bene, sto spegnendo tutto. Chi è? L'ostacolo si conosce. Yeah. Beh, vabbè, giunghi di via. Ciao! Chi è? Sento male. Tanto ma tu sì. Ah, stai uscendo. No, non va bene quel microfono, cambialo. Non va bene, non ti sento bene. Sei tutto raschiato, mi. Sei tutto raschiato, tutto pr. No, quel microfono bisogna aprirlo e controllarlo, tu. Un giorno portalo a casa che te lo guardi. Cicu. Cambia apparato, ce ne hai di apparato, metti in un altro. Sono riuscito a percepire che eri tu perché ho sentito un pezzettino la voce, ma poco. Se no esce tutto quanto raschiato, a tratti. Avanti che chiama? E ti sento basso, là, dove sei? A Budusò, ha detto. Oh, non ti intendo più. Ui. Budusò è lontano, Alto. Cicu. Ciao, sei in 30, di nome di giocandente. Sono portante, non esce. Sono l'importante. Cicu. Gianni. Ehi, avanti. Tutti loghi. Avanti chi ha chiamato.